sempre due vaglietti, lavora in campagna, poi lavora in una, con un signore muratore, fa il manovale, poi la sera va a portare le pizze, una famiglia povera, diciamo, dai. L'hanno fermato i vigili urbani e gli hanno detto: dove sta andando? Io porto le pizze. Con quale pizzeria lavora? Con questa pizzeria. Ce l'hai il foglio, il, facci capire, cioè, con quale pizzeria, però devi essere, si è assicurato, sei dipendente. Però no, io porto solo le pizze la sera dalle 7 alle 10, 10 e mezza, alle 11, dipende. Ah, ho capito. La moto di chi è? La mia. Non l'abbiamo sequestrata. Perché mi deve sequestrare la moto? Perché tu stai facendo un lavoro dove non sei dipendente, dove non sei assicurato. Ma mi sono vista brutta. Alla fine, insomma, gli hanno detto: va bene, allora adesso tu vai, ci accompagni dove lavori, c'è la pizzeria. Però lui è rimasto fuori e non ha capito cosa è successo, sicuramente gli hanno messo la multa. Casino, e infatti non lo potrebbero fare, perché sono ragazzini, gli danno un euro a cartone, gli danno in certe pizzerie anche 50 centesimi a cartone. Se ci sai fare lavori, se no ci va di sotto, perché con la benzina che consumi, alla fine poi non rientri. Ho capito, però lui si faceva tutte le sere, sempre quelle 30-40 euro, 25-30, ma me lo dicevo, va bene, però, insomma, le metto a casa, fa la spesa, ci salviamo, capito? Perché il padre ci avete cittadinanza, quindi evidentemente i soldi non bastano. È un bravo ragazzo, infatti mi ha fatto bene, ragazzi. Ha fatto tanto, ma chi era la pattuglia? Fammi capire, ma ti hanno messo la multa a te, insomma, se posso fare qualcosa con il suo comandante, fammi capire. No, la multa me la hanno messo, sicuramente l'hanno messa a lui. Infatti te l'ha mandato. Quello che c'ha Oggiano, ne ha due Oggiano, e quelli degli altri due che sono in via, che poi Francesco mette qua nel mio palazzo, nell'altra scala giù, la scacchiera, in via, non via Vannambasso, invece via Sieni, quella, la c'è Conti, lì, sono tutte e due dipendenti, tutte qua, sono assicurati, hanno il contratto a chiamata, capito? Hanno un contratto e sono assicurati, quindi qualsiasi cosa succede sono assicurati. Invece lì si ribigliano in usci all'imbrencio, capito? Stanno controllando. Ma ho detto, meno male non mi ha fermato la Guardia di Finanza, perché stanno girando anche le pattuglie della Guardia di Finanza dopo le 10 con le macchine civili, capito? E lì è ancora più pericoloso. Non le ho viste anche con le macchine di servizio girando la Finanza. Quando sono tornato ad Alghero erano già le 9 e mezza, l'altra notte praticamente stavo per attaccare il baracchino, poi tu Gabriel Vazibà, magari non mi sento, stavo per attaccarlo verso le 9 meno un quarto, così da. E poi non è attaccato. E ho visto che c'era la pattuglia della Finanza con i lampeggianti fissi. Sì, mettono la luce di cortesia, quella blu, e girano. E bastava mandarmi un messaggio su WhatsApp, io ti sento anche se sei dentro Alghero, camminando in macchina, non ce n'è problema. Ho fatto una chiacchierata, ti avrei accompagnato fino a casa, non c'è problema. Però qua mi stavo guardando la televisione, perché nel salone non riuscivo a stare. Mi sono seduto qua, capito, con la finestra aperta, avevo un caldo, avevo un libro vivo. Evidentemente la febbre, però ero qua. E io è pieno di motociclisti, è pieno di, dopo le 10 è pieno, carabinieri, stradale, 113, capito, questura, guardia di finanza, di tutto va in giro, anche la forestale c'è in giro, fate il conto. E se ti fermano è un bel casino però. E anche Alghero era pieno, c'erano motociclisti parcheggiati, poi ne ho visto due che stavano girando, ho visto la Finanza, ce n'era, anche Alghero l'ho visto. Mi sono passati ieri sera i falconi, già mai usciti, falconi dei carabinieri, un scimotto, ma grande, e anche loro ci avevano il lampeggiante, no, che ce l'hanno dietro, sembra un'antenna fiscia però blu, io visi per quello, sono passati via Milano a tutta birra, poi hanno girato nella rotonda e sono scesi dall'altra parte. La sigla in prende i rigari, erano i rendi. E quindi ci troncano con la mano che è un gruppo. Quella volta lo sai, c'erano dei guzzi di quelli grossi. E io ricordo quelli che c'erano a Porto Ottone, dei vicini urbani, le moto guzzi, da non abbiamo acceso, un cambio delle radio. E poi li avevano cassati senza concessione, li avevano sequestrati ai vicini urbani. Come uno di quei guzzi, non ricordo come oggi, che poi non ci ha messo a ridere, ma ce l'ha fatto un bel male. In via Principe di Piemonte, Gigi Colombino, allora, buon'anima è morto, si era vigile urbano, allora motociclista. Lui è il Gobetto, Busia, e Piscigendi a Cosua, come si chiama? Guarda che è morto, a Ciambabero, con una Vespa truccata. Via Principe Piemonte, allora non era così, via Principe Piemonte era così, c'era il cantiere di Fara, era tutto strada bianca, eccetera. Aveva inviato una crampata, ma è crampata, un piscio guzzi, a volano, quando lo mettevi in moto. Con la marmita schiacciata dietro. Sì, con la marmita schiacciata, Maria fatta a Marseddu. A te via Pornotone ci ho visto un matrimonio lì di fronte al comune. Quanti gli sposi sono arrivati in moto, lo sposo che guidava, la sposa seduta dietro e tutte le altre moto, le redivision, tutte le redivision erano, si sono messi in fila un gruppo da una parte e un gruppo dall'altra, come sono passati gli sposi hanno scoppiato. Così con la moto. L'unico motociclista bravo che sapeva portare la moto era Bino Crisci, gli altri mollava domani, due battaglie facevamo, io e Marco Secchi, non c'eravamo le vespe truccate, allora entravamo in via Levigna, non ci trovava più, perché Marco abitava lì, conosceva tutte le... i viottoli e non ci trovava più, ma quando ci vedeva in piazza a piedi, io cacci in culo prendevamo, cacci con quelli stivali. E che tu mancati di fiori, non te lo ricordo. E io Francesco Fiori, e beh, io mi ricordo tutti i vecchi perché mio cognato era vigile urbano, quindi infatti Gabino ce la mettava molto da mio cognato. Poi era venuto qua a Sassi, si era trasferito a Sassi, capito? Quindi, te lo puoi immaginare, ogni volta si attaccava al mio cognato, cazzo mi ha rotto le balle il tuo cognato, io me lo fermo, cazzo vedo una sciuccia che era ena o i bocchi, capito? Perché era un delinquente, facevo tutto, cosa mette le mani, era una ruota, cazzo, per carità. Era una cosa allucinante, vabbè, eravamo ragazzini qui e ci perseguitava sempre, ci seguiva, una cosa allucinante. Allora c'era il sistema anche del pallone, ti ricordi, giocavamo a pallone nella via, passava i vigili urbani e te ne ritiravano un pallone. E lo facevano anche a Sassa di quello, monopattino, il pallone. Uno di voi siamo fuggiti con monopattino sotto braccio, tenevamo i falconi perseguitandoci, cazzo. Oh, yeah. Una volta sempre qua, mi ricordo questo qua, siamo comprati il cavallero regolarità a casa. Ah, io Rintas, facci vedere qualche pennata. A casa prende questo qua, si mette in pennata e dietro c'era Paperino, non ha bicicletta. Arrivato a Sacrocuore, lo ferma. Allora, devo fare la multa per marmitta rumorosa. Se la sto ritirando dalla fabbrica la volta, a me non mi interessa, la marmitta rumorosa, accendi, di lui l'ha fatto. E mentre lui stava facendo il coso, gli hanno staccato la candela dalla moto e gli hanno messo un pezzo di carta sopra. E gli ha detto, vabbè, dove abita? E mi segua. Lui ha morto in moto, è partito, è da partire, brrr, brrr, brrr, era pure in moto la moto. E tutti i canti, stecca che prendono in giro, la paperina. Ecco, i sassari li ho conosciuti dopo io. Non sono arrivato nel 85, ma quando abitavo la mamma portava tutti i vecchi. Se no c'è brigadiere Chessami. Era il vicecomandante praticamente faceva. Il comandante era un broscio di nasi, che era allora tenente, poi l'ambasciato colonnello. Vabbè. Bei tempi. Adesso non è morto le macchine, allora i vigili urbani non sono più vigili urbani, adesso è polizia municipale, vado a pensare proprio. E che se era, non so se sia vivo ancora, il padre di un'amica mia, di Maria. Maria? Gabriella Chessa è stata anche la mia ragazza, figlia di Chessa, di Tava di Biabalai. E Maria con gli occhi chiari, bionda, una bella ragazza, lo stesso. E anche Gabriella, forse la sorella Maria, non ricordo. Io Gabriella era in classe con me, eravamo misti allora alle medie, perché era in prima e seconda media, non ricordo. Oh vabbè, oh yeah. Bello tornare indietro, bei ricordi. C'è anche un altro maledetto, che motociclista c'era, Rugobetto, che tu hai conosciuto sicuramente, Bugia, che poi c'è anche il figlio adesso, che è vicecomandante addirittura, Gigi Bugia. Poi chi c'era? C'era Gigi Colombino, che erano i più vecchi dei motociclisti. Poi c'era Gabino Cresci, un altro ce n'era. Ah, Mario Buzzi c'era, esciuga, un altro, quello di Valle d'Oria. Mamma mia! Sì, ho capito chi è. Maru. San Mario, mamma mia, quanto era Maru. Ancora cattivo davvero. Quello quando si fermava, ma anche poi che è sceso dalla moto, che ha iniziato a fare pattuglia in macchina, ci metteva lì, quanto sarà in pensione? Poi c'è andato assieme a mio cognato, sarà 3-4 anni fa mi è andato in pensione Mario Buzzi, perché sono entrati assieme con mio cognato, quindi tutti e due sono andati in pensione come maresciallo. Si metteva lì nella 131, all'uscita della campagna dei Pidriati, con la fotocamera. Lui e Dante, con la testa pelata, con l'altro testa di minchia, che eravamo a scuola assieme, si è dimenticato anche lui. Quello lì, ovvero Strage Marziani. Ovidi. Quello lì è Dante. Quello era a Cagliari prima, Vigio Urbano, lo sai, a Cagliari era. L'hanno mandato via da Cagliari, che ha fatto un casino di Gesù Cristo. Ha avuto un incidente, quello lo sai, con la moto su. Ma adesso? E poco tempo fa, so che ha avuto un incidente grosso. Quindi mi sta facendo mia sorella. E il guardo di Fiori, non ha visto mia sorella, gli ha detto, lei signora è una donna completa. E c'era un tipo che stava passando e gli ha fatto, lascia tu cadere un capo, come ti dice, mancanti, lo lasci perdere. Francesco ha commentato tutti quello, raccontava un bel mio cognato. In piazza allora, quando era veramente corso Vittorio Emanuele, che c'erano 3-4 vigili, uno giù in piazza Colombo, l'altro saliva e scendeva a piedi, l'altro stava all'incrocio con via Ponte Romano e l'altro in via Sassari. E Francesco si posizionava sempre in piazza, infatti un domenico mio cognato diceva, Francesco, convertiamo un po', dai un po' tu giù in piazza Colombo, io salgo verso la piazza, ragazzi. Non ti vuoi vedere, allora c'era il bunker e tutti venivano da Tintino, no? Tutti i cosi, i turisti, ti ricordi, c'era, ti parlo, degli anni che c'era la Sira aperta, ecco gli anni lì, dove i vigili urbani in quel punto, se ti ricordi, mettevano il coso, no? Lo sgabellone grande rotondo, zebrato, dirigevano il traffico da quelli che arrivavano a via Ponte Romano con incrocio Corso Vittorio Emanuele, dove lì poi quando c'era la festa, io l'ho conosciuta la festa dei vigili urbani, tutti mettevano la roba lì, chi bombole, chi cartoni di tutto, capito? Anche Francesco una lì chi ha fermato uno, perché c'aveva la mano così a fermarsi e stava facendo passare quelli che cosa mettete mano, ha detto il continentale non si è fermato, l'ha accosciato, ha detto lei conosce la mano di un vigile urbano quando è così davanti che le sto dicendo di fermarsi, no, e questa la conosce, boom, la cutuca tutta moseghita. No, non vi credo, in servizio. In servizio allora, in servizio. A me una volta stavo passando in via Ettore Sacchi, avevano dirottato gli autotreni, non potevano passare, no, in via Sassari, quindi la facevano passare da via Ettore Sacchi, ero con il camion, stavo scendendo, mi fermo a Fiuri, io mi sono fermato e mi fa la freccia perché non l'ha messa, e si è messo in mezzo alla strada di colpo, cosa faccio, la freccia penso, mi sono fermato, cioè adesso fa tutta la retromarcia, tutta la via retromarcia che stanno scendendo gli autotrini. Certo, io tutta la via retromarcia ma la faccio, ho le macchine dietro, ho altri camion dietro, come faccio a fare tutta la... se non fa tutta la via retromarcia, io le metto la multa, ho detto faccia quello che vuole, mi metto la multa, mi sono messo sul marciapiede, ho fatto passare l'autotrono e poi mi sono impuntato, non mi ha fatto nulla. Travolante la Francesca, travolante la Francesca. Ma già aveva fatto vedda Ignazio Bassetta, lo conosce, a Grillo. Che io? Non so se è morto, no? È sceso in piazza, che aveva quel motorino tipo Ciao, tipo Garelli. E Francesco, perché mi ha raccontato due cognate, Francesco l'ha fermo dove c'è, adesso noi per voi, no? Prima non so che ne vuoi, dove c'è la Medusa praticamente, così la chiamava, non so, Fraghi, dai, lì. Avremmo. Mi pare che non ha fatto passare nelle strisce pedonali, là c'è una strisce pedonale, se ti ricordi, non c'era il ciottolato, era proprio tutto asfalto prima, no? Già lo sa. E c'era le strisce pedonali lì dove c'era la Giorgo, allora no, lì c'era una strisce pedonale, attraversato pedonale. E' passato Milo, abbiamo anche segreggiato uno, Francesco l'ha visto, l'ha fischiato. Due o tre volte abbiamo si è filmato io sono vicino a gritare, stavo andando, vado via alla luce, è andato, era di tu, dimmi una cosa, ma a chi non ti servemmo quando taglio bruciato? Vabbè, ti dovevi fermare perché lì sono le strisce pedonali e tu devi far passare la gente. Io non mi chiamo Bruscio, mi chiamo Ignazio Bassetta, ha detto. Ma com'è signore? Che ti chiami Ignazio Bassetta lo gioco? Ma io ti ho fischiato per farti fermare, ha giudito che a me non mi interessa, il Bruscio parlava così, io mi chiamo Ignazio Bassetta, ah dice allora ti devo chiamare per nome la prossima volta, e allora Bruscio mi chiamo io. Sono più mancato di là. Beh cazzo, Ignazio Bassetta era mitico, per carità. Alla volta si intendia, è tipo il signor Gavino, no? Quello che ci abbiamo noi a Sassa, lui si è a Bassetta a Portotore. Già me lo ricordo, il comune l'ho visto più di una volta. Il signor Gavino è quello che lavorava con Porcella, no? Che poi era praticamente, faceva un po' di tutto, consegnava, faceva, poi alla fine l'hanno messo a fare, andare a incassare, no? Perché Porcella lavorava la roba, poi andavi tu a portare i soldi ogni mese, oppure andava lui, ma quando andava lui erano lui, c'era in ritardo, a volte si moriva, noi te detto no, di chi sono io, chi sotto, arregami ridinà, di Porcella, voi ridinà, ma non a volte no, con un megafono. C'è a Sassari, non lo conosci, quello che si mette a Vucci in piazza, sta sempre parlando della torre, che quando parla lo sente così la sacro cosa che per il ma non riesce un Gavino lì, quello che c'è la torre della torre, quello riesce un Gavino, qua più di 80 anni mi aveva, quello lì lavorava un Porcella, è quello, ancora oggi quando parla si intende a San Camillo va a vedere, quello si metteva a voci e dovevi scendere perché ti faceva lo scandalo. Oggi ne avemmo zinco, l'uno mi devi portare i soldi, ancora oggi parla così, parla un po' dialetto, un po' italiano, ma a volte. Sono qui, ti sto aspettando, scendi a portarmi i soldi perché Porcella vuole i soldi. Ehi, è vero, sì, sì, lavorava la Porcella, ma credo lavorava in comune, se faceva il fatturino in comune. Ehi, mi sembra che sia Torino, poi se l'ha preso Porcella, figlio d'animo, ma c'è un bambino, una cosa allucinante anche oggi. Se devi dirvi qualcosa, non stai tranquillo che non te lo mando a dire. Già l'intendi? Gabbino la cambiare. Esatto, esatto Giulio, Gabbino la cambiare, allora, a cambiare. Mamma mia. Ciao Claudio, ciao Gianni. No, prima lavorava da capita al corso, lavorava. E poi è entrato la Porcella, non era in comune Gianni. Ma era tremendo, ma ancora oggi, da poco l'ho incontrato alle poste centrali, sempre a bordi, sempre a Ticchirri, mamma mia che uomo, Gabbino da cambiare lo chiamano, a Sassari lo chiamano così. No, ciao Giulio, non hai capito, in comune lavorava Grillo, quello di Porto Torre, che è più o meno come Gabbino, lo stavamo paragonando a Gabbino, capito? Sì, sì, niente Massetta ha lavorato in comune, lavorava in comune, sì, sì, alla manutenzione ferrari, quello molto piccolo ad esempio. Sì, sì, è uguale ciò, te l'ho detto. Gabbino da Gambiara è a Sassari, e Grillo è... perché l'avevo messo Grillo? Perché quando parlava aveva la voce proprio come un grillo, ma a voce, mamma mia, meglio guarda Giulio, io l'ho visto da poco e adesso non sto più uscendo, però prima quando andavo la mattina a prendere caffè al Trisbar, una mattina, quindi io ero fermo al Trisbar che è l'angolo con via 4 novembre e via Tempio. Lui era in Viale Dante dall'altra parte, si intendeva di volte ed era ragionando con uno, non so di che cosa. Man mano che si avvicinava era una cosa allucinante, sembrava che avesse il megafono in bocca. Sì, ma è un boccione, è una cosa impressionante, per carità. Ehi, ma ce ne sono tanti di questi soggetti qui a Sassari, un bel vendetto. E così Mucinelli, lo stesso, quello, Mucinelli, ma oggi non va niente da mangiare, che siamo subito, andavo in un negozio di generi alimentari e cominciava, dammi un poco d'affettato, e cosa vuoi, un poco di tutto. Quando che non so una quantità com'è, 700-800 grammi, allora fanno un altro, dai, basta così, fanno un altro. Dopo che aveva fatto 5-6 affettati, e questo un attimino che faccio la macchina in divieto e sosta, io vengo subito, e non si vedeva più. Quando mi faceva tagliare chili di affettato, è una cosa impressionante, ma carità. E se ti bugia lui? Se bugia lui. E diceva, aspetta che sono che faccio la macchina di più e sono, se vengo subito, poi fare intanto un bacco, non si vedeva più. Oh, boh. E ce l'erano, c'era quello randato, brancato, brancato si chiama. Quello che diceva alle donne, un'ora, mi cantava un'ora sola, ti vorrei per farne 4-5 sì. Addirittura leggendo la Roma Sardegna mi ha detto, quella è la Roma Sardegna e questa non le sa, mi ha avuto la mano. E se non maciste, un tipo che andava a passare a petto nudo, no? Era forte, questo effettivamente era forte, veramente. Però era mancante burro, perché non era solo forte, era burumacco. Entra in un bar lì che c'è all'angolo tra via Cagliari e via Cavour, mi sembra che sia quella, adesso non mi ricordo quel bar come si chiama. Entra in bagno. A chi non vedevo il rubinetto, appigliato nel cavallo del lavandino. Se l'ha messa sotto il braccio e sei uscito fuori con la bandina. Ma dai, Franco Maciste io lo conosco una vita, lavorava da multiletto, lavorava da quel multiletto che adesso è diventato Conad, che c'è scendendo, che via è quella, via, dove c'era anche il Radio Mutu, eccetera, eccetera. all'incrocio, all'incrocio di Piazza Azzurri, dai. Un attimo che arrivo subito, riprendi giù. Ok. La carità, non è possibile, ragazzi. Guarda, ce ne sono di questa gente, non sai quante ce ne sono, eh? Tantissimi a Sassari, o Gianni, ma tanti veramente, ma poi mi ci vuole poco, mi apri, scrivi Gabino la cambiale sul computer e a fare c'è tutta una storia sua. Incredibile. Allora Franco Marcista era uscito di testa perché la moglie gli aveva messo le corna, è diventato così per questo, è uscito di testa per questo. E la moglie era bionda, infatti come vedeva bionda le odiava, gli faceva, gli toccava il seno, faceva. Un'amica mia gli è andata là dietro una volta in differenza che era bionda, gli ha toccato il seno, che sa che aiuto, aiuto, si è girato, si è visto Franco Marcista. Sì, ma ce n'erano tante di queste, ce ne sono tante. Se tu contavi il telefonino stesso, mi scrivi Gabino la cambiale e vedrai quanto te ne appaiono di queste persone, Uccinelli, poi quello che va in giro che fa il pugilato, che secondo lui deve fare incontri di pugilato, non ricordo come si chiama anche quello, che si allena tutti i santissimi giorni, l'avrai visto sicuramente tante volte per le strade, vestito da pugile, con le mani, con le cose, come si chiama, con le fasce nelle mani, e lui è convinto di fare il pugilato, è incredibile, ce n'è poco di niente uguale. Si chiama, non me lo ricordo adesso, ha il nome di qualche pugile, di qualche cosa del genere, lo chiamano così, non mi ricordo adesso come si chiama, però si mette i calzettoni lunghi sopra i pantaloni, eccetera, eccetera, sì, quello già lo so, lo conosco, con la fascia in testa, tutto sudato. Peruccio Rubato si chiama, che poi lo chiamano di soprannome la Cina, perché ha gli occhi alla cinese, hai capito? Lo chiamano la Cina. Ho capito, tu non l'hai visto facendo il robot a quello lì, a una festa l'abbiamo chiamato e faceva il robot, ma non so quanto è bravo. No, non l'ho mai visto quello no, non l'ho mai visto, per cui lui non è possibile, capito? Oppure Muccinelli, che si chiama Giovanni Cao, si chiamava, adesso è morto, aveva un'attività, un bambi a Napoli aveva, ed era quello che andava in giro e faceva fare tanti affettati e poi se ne andava e non ci ritornava, dopo che gli affettati erano tutti pronti. Quello lì era un tifosissimo della Juventus e l'avevano messo Muccinelli, perché allora in quell'epoca lì la Juventus aveva un giocatore che poi era un ala sinistra e si chiamava Muccinelli di cognome, e lui era tifosissimo di questo giocatore, e allora a Sassari l'avevano chiamato il soprannome Muccinelli, Giovanni Cao, detto Muccinelli. Sogni caldi e sogni belli ti ha fregato Muccinelli. Anche ciao Natalia, ciao Giù, il 16 mi operano. Il 16? Capita, va bene, dai. Dove vai? Alla Secca Bianca? No, sino fra un anno magari in Chivi, 2 anni, al policlinico vado. Vabbè, lo stesso, già sono bravi lo stesso, non c'è problema. Da poco lì è stata operata mia moglie alla cataratta, 20 giorni fa, dai, più o meno. Adesso è in fase di guarigione, fra un mesetto o 2 mesi deve fare l'altro occhio. No, già sono bravi, la verità. No, non è un problema, o Natalì. C'è un ospedale abbastanza attrezzato in quanto a professionalità. Ehi capa, ci sentiamo che non posso parlare qui. Ok, ciao Natalì, ciao. Avanti Gianni. Buonasera. Già ti sentiamo, a voi già ci sentiamo. Ciao Franco. No Franco Pano, no. E anche voi mi lamentate dei macisti, si chiama Franco Pano, che dove andava a petto nudo, quindi che si entrava in un bagno, in un bar, se si buttava un lavandino sotto il braccio. via. Però avevo una forza tremenda. Una forza della mente, però era una forza di persona scema, non è che era, forse perché ha fatto un po' di culturismo, che cosa ne so, era ben piantato, alto, ben robusto, sempre a petto nudo, sai lui. Anche quando faceva freddo lui era a petto nudo per far vedere i muscoli. Avanti Franco. Ciao Franco, ciao, c'è un maiale che sta facendo il russo. Sì, io ti sento bene, non c'è problema. Come sempre, hai abbastanza bene. Va bene, va bene, fra. A Puglia, alla grande. Da me si salta così a me tutti i Covid. Ma in campagna l'hai messo? Ah, il signore di campagna. No, già sta uscendo, già si sente. Interessante sentirsi. Non sei fortissimo, ma già sta uscendo un bel ok, qui 7-6 fra, è radio 5, no, non è un problema. Gianni, poi c'era Gavino Salis, il noto Cadarana, Scarafaggio praticamente, dai. Quello lì aveva collezionato una serie di processi che non finiva mai. A 62 anni ci voleva andare in carcere perché era stanco di stare. E lui aveva avuto 364 processi. Ma veramente, mi sto scherzando. E allora erano delinquenti. E allora cosa dire? Ma per dire, no, ma il bello era detto, vuole andare in carcere, dice, perché non sapeva più cosa fare, capito? E allora voleva andare in carcere. Si sarebbe carina, ma hai fatto 64 reati. E via, drogaridate. Vabbè, succede. Claudio, vediamo se Marco è all'ascolto, se si è addormentato dopo che ha mangiato. Ok, dai, mi allontano un momento, dipende fra, mi allontano un momento. Ok, vai, va bene. Allora già, se mi sarà pronta già. Niente di nuovo fra, niente di nuovo. Sono sempre con questa paranoia del coronavirus, cavolo. Che il sindaco ha detto che se settimana non si risolve il problema, dobbiamo chiudere tutto. Lockdown. Cosa? Questa ristorante non c'è mai da chiuso, come fanno a lavorare questa gente? Beh, il ristorante lavora solitamente più a cena che a pranzo. Scherzato stai, e la metà del guadagno se ne va. Più della metà, perché a cena sono sempre pieni i ristoranti, a pranzo li puoi trovare pieni d'estate, quando sono i turisti, ma se no travagliare a cena. Sia pizzeria che cosa, che ristoranti lavorano a cena. Vabbè, che ci vuoi fare già, anche lo dico. Ma per cambiare la situazione è quella. Ma non c'è, vabbè, a proposito, a Cavale ci sono andato? No, non ci sono andato, no. Troppo freddo, mamma mia, non c'è più gana. C'ho dolori fra, la mattina mi ha sentito dolori, se vado a Calamari di notte è un casino. C'è l'altrusi a tutte le parti. C'è una penaliscola della virtù. Ho visto che hanno messo l'accordo sul fresco, anche con un po' di sedia, calamare, cosa del genere. Ma senti, già lo so. Io volevo andare l'altro giorno, poi tu non ci vado, se poi mi beccano, perché ti stanno fermando all'uscita del porto, la capitaneria. Se ne sequestrano tutti, ti mettono multe di 1000 euro, 1200 euro, se ti trovo. Perché non si può pescare il trasporto, ecco perché. C'è scritto in grande, se tu guardi all'entrata, c'è scritto in quel cartello divieto di pesca. E lì si pesca, io ne ho preso anche i 12, i seppie tutti insieme, calamari di meno, ma seppie anche anche 12 ne ho preso, mi chiedi a Claudio che ci ha fatto anche il riso con le sette che abbiamo pescato. E non in Alaska, lo abbiamo avuto noi dello snodo perché ne chiedi qui. Proprio nella puntata, lui di freno non sarà mai. Se tu vai alla parte dell'alto fondale, ancora meglio, dove ci sono quelle rocce fitte, dove c'è l'alto fondale, lì, non c'è cazzo di bigliettini. Ma dai, vai già, la strada seguendo. Allora, praticamente tu entri per andare via al porto, però dalla parte dove andavo io ce l'hai presente. E c'è quel muretto, poi ci sono quelle rocce grandi e c'è l'alto fondale lì. E lì tu però rischi, perché se scivoli di Gaginella ti fai mani buva, che è tutto canto a cantoni di quelli però messi dall'uomo, non sono rocce, sono proprio cantoni. Ma questo è proprio più bello. No, poi andare la terza a prendere se ce n'era. Ma c'è proprio freddo, cosa vuoi fare? Ehi, l'altro giorno ci ha parato la bagnata, sembrava che avesse piovuto quando ha portato il cane. Sì, è così, c'è un po' di umidità, la iatta va. E poi, in effetti, non è niente, un po' di amici sono andati a fare quella pescata. Vero, questo è un ragazzino, non è pesce. E con che esca sono andati? Se vai dove ti dico io, è con gli americani, prendi qualcosa la prendi sempre. No, questi c'è proprio gli americani, i tipi, i coreani, tutti tipi di esca, morito, primo di giorno, allora non ce n'è, chi lo sa. Avranno messo i parametri quando sono andati loro, perché a volte si mettono i parametri. Una volta io non pescavo nulla, ragazzi, poi ho visto la barca che è entrata di notte e ha ritirato i parametri. Dopo che si è andata, che siamo a cagli, ho cominciato a piccare. Corretto, parametri, un po' di tutto c'è, la picca. Qualche cosetta stavamo pescando lì a mare aperto, adesso c'è loro. E a mare aperto sì, c'era uno che veniva da me a chiedermi granchietti piccoli quando ero in pescheria, li sceglievo apposta per andare a pescare e poi un giorno mi ha detto scopo la cosa, dammeli anche lui, intanto li taglio in due e li rimetto, sto prendendo dei saragoni allucinanti, va belli miei, anche da chilo in due. E con i granchi che stava pescando e con i cosi, e con come si chiama, calorichi, non calorichi, un bocco. E poi i bocconi sono callosi, capito, tengono bene le lame. Ma noi in mezzo a quelli grandi c'erano anche i piccoli, li sceglievo. Più di una volta mangio pigliato di mossi, scivare dei vinica. Li sceglievo, capito? Poi ho detto, vabbè, non ti preoccupare, dammi anche in grande, tanto li tagli in due, li metto a metà e vanno bene lo stesso. Sono tutti che ti scelgono, ma dopo di qualche amico riesce a scegliere di andare per sacchetto, ma poi se no, non così. Beh, no, ma noi praticamente li rovescevamo, i sacchi li aprivamo e li mettevamo nel contenitore, capito? Quindi veniva meglio a prendere una macinella, una specie di macinella, un contenitore quadrato dove stavano dentro, a volte se ne uscivano anche fuori, insomma. Però quando c'erano li riceglievo, o quando veniva li mettevo, diceva, vieni, ha fatto il passo dopo. E li mettevo da parte e poi quando veniva li ridavo. Vabbè, lavorate tutte le cose di scendere, lì, per scuola. Come c'è la moto non ci vai? Sono andato una volta quest'anno e basta. Ho preso un'orata e due saraghi, boh, basta, non mangio più da due anni. E poi non ci sono più tornato. Ma dopo, è sempre al passetto? No, dalla spiaggia. Dalla spiaggia dove vado io, c'è roccia e sabbia, capito? Tutto mischiato. Prendi di tutto, prendi anche le razze. Poi siamo andati quando un paio di mesi fa lì a Coro, verso Baliglia, di Barona, non so se la conosci quella spiaggia lì. Tutta la notte non abbiamo preso niente. Ah, vero. E a Baliglia si pesca bene, mi prendeva certe orate il cugino di mia moglie che da incanto, bellissime, da 2 kg, 2,5 kg, bellissime, ma proprio belle colorate, cazzo di luna. A Padesi ha sempre pescato, però lui ci andava con i granchi di sabbia a pescare lì. E li faceva l'amo sul posto, già conosciai, no? Mi metteva la dentro, tutto quanto, quello tirato, fatto, e c'avevo un po' di pazienza. Poi le avevano regalato una di quelle canne, ancora, non so se ti dico di quelle antiche, che di quelle umbe alte, c'era, penso sì, mitri, una cosa del genere. Ma faceva centinarci quella canna che sembra di legno, buh, sembra una canna di legno. La portatura è un casino già, ho giurato che non compro più niente, capito? Se dove basta, cazzo che sono dimostrato, non c'è più niente, non c'è più soddisfazione, capito? Io l'ultima volta che sono andato sono avvicinato i due ragazzi, non è che c'hai due starlette da venderci. Io ho detto, tanto già ti vendo, vai, tranquillo, costa 50 centesimi due. No, dai, te le pago, ah, sapevo, vai tranquillo, ciao. Guarda che cazzo io li prendo, che cosa, gli starlight, costano di meno lì, così, vanno bene. Ma perché li prendete? Una vecchia, però. Oh, e quanto costano? Oh, fra, ti devo lasciare che mi hanno chiamato... se posso riaccendere. Ci sentiamo fra. Alle prossime. Alle prossime, assolutamente ti riesco a nascondere. Alle prossime, ciao. Ciao, ciao a tutti e due, scusate, mi sono dovuto allontanare a prendere la pastiglia. Ciao Franco, ciao Gianni. Ci sentiamo, intanto adesso preparo per portare i cani. Ciao, ciao. Ciao Claudio, ciao, ciao. Ciao Claudio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Attenzione 10, c'è qualcuno? No. Beh, Bombolox. Buonasera Marco, buonasera. Siamo in sentito, c'è anche qualcun altro che ha fischiato. Sì, stasera, diciamo prima, tre quarti d'ora fa c'era Claudio, c'era Gianni, c'era Franco California, chi altro è entrato? Giulio ha salutato. Io ero all'ascolto, stavo facendo roba al computer, stampando ricevute di condominio, bonifico al condominio, mi sono stampato un'autocertificazione nel caso che servano medicine urgenti di notte, tipo alla farmacia di turno, meglio averla stampata da compilare in fretta. Tutto lì. Ieri sera ho sentito azzicchirri contro qualcuno che arrivava in mezzo al quarreme, ma chi era? Era giusto andare in Oramara. E uno scemo. È sempre più niente in baruncuro, ma tanto lo so che il segnale è in Chivi da Lattidotti. C'è poco da fare. Ah, dici che è quello che ti metteva a portanti al latte dolce, quello che era a fianco a te? Scappa. Tutto bene sta andando, perché ho cercato di abbassare il stazionario un po'. Sì, Anto, tutto bene. E poi segnale 9.25, poi quando sei liscio esci meglio di... è più limpida, capito? Più limpida. Eppure bisogna trovare il modo di pilotarlo, quello senza saturare. Tu meno di 4 watt non gli puoi dare, no? 4 watt, e c'è a vedere se lo fa ancora, perché ho abbassato le stazionarie, aspetta un attimo che lo provo. Buonasera. Buonasera anche a te. Ciao Gianni, ben entrato anche a te. Eri tu che avevi fischiato prima di Bombolo? Negativo, ho acceso adesso. Ehi, un attimino che mi guardo, mi ascolto un messaggio, riprendete. C'è un attimo già che devo fare una prova. Due secondi. Ehi, ciao Marco, ciao Antonio, buonasera a tutti. Hola. 1, 2, 3, prova. E lo so già che ti sto arrivando a bomba. Devo fare una prova per se era sempre bigio e mi ha migliorato. Secondo me ha migliorato un po'. Anto, ma mi sembra di aver capito che c'hai più di una radio, così è? Fa. Ah, ok. È perché solitamente usi quella col beep, che c'ha un beep particolare, dai. E niente, vabbè, comunque qua, vabbè, siamo un cazzo da 100 metri, 150 dai. e quindi non fa testo. Magazza. No, già. Qua va bene, qualche uno più lontano, volevo provare. Vabbè, c'era tutto a posto perché ho approvato delle modifiche, ho fatto. Quindi volevo provare, c'era tutto a posto, mi capito. Ehi, ma cosa sei liscio adesso? No. Kappa. Vabbè. Come si dice, poca spesa, molta resa. Sì. Ma non si sente la saturazione, no? Sì, c'è la radio un po' compressa. Dai. Si sente che è un po' schiacciata. Luca, buonasera. Niente, andiamo dove andiamo? Sei a casa di Marina. Ciao Gianni. Ma come ti arrivo lì a casa di Marina? Sul più, sì. Ok, allora vuol dire che sta funzionando tutto bene. Chiesa, avanti già. Ehi, passa un passo. Ma ben sentito. Ma ti sei piazzato la boomerang dalla 25? Positivo. No, Anto, non passi, Non passi, cioè mi sovrappopolate. Comunque Gianni arriva forte qua, arriva quanto è te. Da liscio Gianni, da liscio, ciao Luca. Ciao Marco, anche a te. Sì, liscio, sì, arriva, no, sempre mi arriva Gianni. Vabbè, io sono un po' più aperto, insomma, anche se sono levato, non vanno da lì va. È proprio la posizione che manca da me. Ehi, era tanto di troppo. Devo andare a casa che devo sistemare una TV. Da riprendete voi, ma sentiamo la casa se ci siete. Non c'è mai nessuno la sera, boh. Ah, Luca, scusami, ma dalla 25 hai messo la boomerang? Ehi, è una tua già, sì. Ah, ok, la leva è quella da 3 metri. Cappa. Bene, bene, vabbè, come ti va? Guarda. 1-1 le stazionarie. Vabbè, modulati 10 watt, dai, se il fischio sale a 13. Bene, bene. Quindi hai tolto quella crocchio dalla mantova, giusto? No, fammi che la mantova faccio la casa alla mamma. No, ma dico, dalla 25 avevi quella crocchio ricavato dalla mantova, giusto? Ah, sì, radiale, sì, beh, certo l'ho fatto. No, bene, bene, sì, è migliorato tantissimo, dai. Rispetto a prima si sente e si vede, dai. Ok, avanti Marcolì. Ma mi stanno tormentando in questo periodo da AliExpress, Banggood, com'è quell'altro? Come si chiama? Gearbest, mi stanno praticamente tempestando di mail con questa storia delle offerte natalizie e anche di questo 11 novembre che per loro è festa, non so che festa sia, e abbassano i prezzi. So che io denaro da spendere non ne ho al momento, mi tocca cestinare tutte le mail. Oh vabbè, dai, riprendete voi, se siete dopo, se le avete voi, alle 8 e mezza arriverò a casa. Sempre col tram, Luca? Certo, sì, perché la macchina la uso lì per lavoro, capito? E al momento me la posso permettere, la non fa. No, è una spesa, se non è un'entrata ogni mese è un casino. Vabbè, dai, la frappi. Sì, dai, vai, ce la sentiamolo. Non c'è nessun problema. Ehi, ciao Luca, dai, buona trasferta. Niente, così, adesso solita storia, a breve poi televisione e tiriamo a campare. Marco, 3009 stai usando? Sì, oggi il 3009, dai. Sempre con i soliti 3 watt utili e tutto lì. Sì, mi piace, proprio... Bel segnale, modulazione pulita, chiara, limpida, era the best. È il padrone del baracchino che è guasto però. No, lo preferisco, proprio mi piace, un bel suono. Mi avrei voluto mettere solo che non ci passano il macernaio, sabato. Sono sicuro che con le prestazioni avrei migliorato ancora di più. Mi vuole mettere il capo grosso. Però non ci passa nel lucernaglio, è troppo grosso. Abbiamo parlato in due. No, diceva anche Antonio esce bene di radio. Volevo chiedergli se sta usando sempre il DM1000. Sì, sempre lui è. Per quello ha la tonalità con toni bassi. Oh già, io mi ricordo che autoregistrandomi col baracchino nella tua stanza, no, col registratore col Vox, la mia voce con i toni bassi e il DM1000 non mi soddisfava, preferivo l'M95. È un po' un paradosso, perché la mia voce risultava più, come dire, un tanto migliore con i toni bassi, eppure a me a orecchio non mi piaceva. Ascolta Marco, facciamo un esperimento, sempre se è possibile farlo e se ne gana. Siccome non ho mai avuto la possibilità di ascoltarmi via come si dice, via radio, anche un audio, tipo un vocale anche su WhatsApp, registrare un attimino un passaggio, così almeno me lo posso riascoltare, giusto per avere un riferimento. Sì, dammi tempo di approntare il tutto, conta che c'è una discreta degradazione con questo minchiofonino dello smartphone, e poi come tu lo riproduci col tuo smartphone ci sarà un'ulteriore degradazione, però se ti accontenti prepara il tutto, dai. Io no, ma si negano, non è che deve essere assolutamente una forzatura. No, chiaramente, certo, con tutte le implicazioni del caso e tutte le variabili, era giusto per sentire la mia voce attraverso svariati passaggi, soprattutto quello del baracchino. Fatto, aspetta che lo verifico. E cos'è questo? Aspetta. L'ha salvata? Vediamo se è la tua. Sì, adesso te la mando. Va bene, dai, avanti anche tu. Hai scivolti, non c'è problema, non c'è. Io dico di con gli M1000 esco bene, solito io esco bene anche con quegli apparecchi modificati. Dici cava cava! Ce l'ha avuto l'87, minchia, la facciamo scorreggiare. Sì, la resa è, vabbè, quella che è. La fa un po' più metallica, un po' più... Ora! Vediamo, dai. Sto cercando dunque, eccolo qua. Ora! Ora! 1, 2, 3. Mi sono spostato un attimino. Cosa è successo nel frattempo? Ma l'eco c'è adesso? Sì, una puntina ce n'è, dai. Sì, capo, già va bene, vai. Ma in oramara il microfono sono là, dottor Mottona, com'è? Perché va e non va, va. Adesso va meglio, prima era un po' troppo. No, va e non va, va e non va, quindi lo tenga a zero e pazienza. Bene meda. E allora Marco? Già registrato, la sconfinata. Perché te la sta mandando Marco, vai. Sì, guarda, te l'ho mandato già, prova un po'. Stavo per sbagliare file, perché qua c'è anche altra roba di audio. Aspetta, Antonio, te lo faccio sentire. Aspetta, non ti scandalizzare. Cos'era, aria digerita? Sì, gas più che altro. Aria di seconda mano, dai. Antonio si è scandalizzato. Non mi pare, dai, magari si è distratto un attimo. Adesso vediamo se riesco ad aprire il file. Lo faccio direttamente dal PC, perché sennò non si capisce una massa. Sì, devi, guarda, se c'hai un altoparlante buono esterno, tipo Bluetooth, oppure in cuffie, se cuffie buone, ascoltano in cuffie, naturalmente abbassa il volume, perché lì sembra più amplificata del dovuto. Dovresti abbassare il volume, sì. Ok. KK, no, vabbè, lo ascolto tramite le casse del PC con un piccolo sistema Logitech. Vediamo un po', dai. Antonio, ci sei? Sì, a Giuma non caggiù da riccare, va in Norammara. Ma per il fai l'audio? No, oh, perché qua, per salire qua ci sono le scale. Ehi, già l'ho visto, dai. Col video di Halloween, delle luci di Halloween, ho visto che c'è il piano di sopra lì. Adesso mi aggazzino la giubbata. Un attimo di bianco per me che mi ascolto l'audio, Marco. Vai, vai. È un po', sì, registratore dello smartphone, un po' così così. Meglio sarebbe avere quei registratori Sony, un registratore Sony di quelli digitali, hanno una qualità un po' migliore e una campionatura più alta, mi pare 192 kilobit per secondo, non è altissima, però è sempre meglio di questa sarà, non lo dice nemmeno, ma deve essere scarsa, vediamo. No, non dice niente. Telefono c'hai? Allora, ho il telefono preferito di Trump, Huawei P-Smart, del 2018. A dicembre scade la garanzia. Oh, io sono andato su Redmi, Xiaomi, è uno dei tre migliori, la seconda al mondo, la seconda azienda attualmente che migliore che ci sia. Dopo prima c'è la Apple, poi ci sono loro. Sta rimontando, però io darei, almeno per i telefoni, sceglierei o Samsung come prima scelta, Huawei seconda scelta e anche Xiaomi. Io per esempio fino a un anno fa io ne avevo due di cellulari, uno era questo e l'altro era lo Xiaomi Redmi Note 5, mi pare, sì, Redmi Note 5. Siccome avevo due schede ed era impossibile gestire due cellulari assieme, ti dovevi caricare tutte le schede, uno praticamente l'avevo regalato a un amico nuovo di negozio, regalato. Allora io ho l'8T, quello che c'ha quattro telecamere, l'8T Note è una bomba, no? Cioè, è il miglior telefono che io abbia mai avuto. Cioè, c'ha l'attacco ciccia anche, quello più largo, carica batteria, caricatura rapida. Non lo cambierei, cioè, ho avuto il 6, mia è Global, e ho avuto questo qua, ma questo è proprio una cannonata, questo pompa. Ti faccio gli aggiornamenti che ci sono da fare, adesso c'ho anche la versione 12, minchia, pompa un bel. Eccomi, Marco, ho ascoltato l'audio, non sembra male, dai, cioè, pensavo peggio, a parte tutti i vari passaggi, la registrazione ambientale, comunque, pensavo peggio. Adesso, vabbè, mentre sono qua al mic, sto registrando e ti sto mandando il vocale, dai, qua in contemporanea, cioè, nel senso, sto registrando, ti mando il vocale così senti il sound mio live, quello di Antonio tramite altoparlante, e poi dai, sentiamo il tuo passaggio, avanti. Eia, cerco di fare la voce più seria possibile, vediamo un po' come va, 1, 2, 3, vabbè, comunque l'ho sentita di striscio sul precedente passaggio che hai mandato da un secondo, la mia voce è veramente brutta, no? No, non mi piace niente, per non dire da Vroscio, me, ecco, poi prova a staccare, vai. Trovo più da Vroscio, vai, ma stai scherzando, Va benissimo, te l'ho già detto. Aspetta che stacco e te l'invio. No, Antonio, vai, manda Antonio, troppo tardi. Senti la mia voce. Ah dai, che non è voce da Vroscio, quella si dizendi. A me la voce mia via radio è brutta, cioè, non via radio, la mia voce è brutta comunque, anche di persona, quindi via radio posso immaginare. Aspetta che ascolto, dai, un attimo di bianco. Dai, ma non è vero niente. Se te la manda, mandala pure a me a vedere come mi sento, perché non mi sono mai sentito con questa radio. Per esperienza personale, ho avuto modo di sentire la mia voce registrata.